piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. E oggi ci ritroviamo a un giorno dalla manifestazione organizzata a Roma con tante realtà. Abbiamo l'Eretico, abbiamo altri gruppi Facebook, altre associazioni in difesa dei diritti dei bambini, perché il nostro gruppo mira solo a questo: difendere i diritti dei bambini che vengono calpestati ogni giorno. Ogni giorno se ne sente una. In Italia alcuni bambini sono stati portati via ai genitori. Non permetteremo che una legge Azzolina e Lorenzin obblighi i genitori a vaccinazioni criminali, mortali. Dietro ci sono degli interessi delle case farmaceutiche con politici, medici, anche parte della magistratura che asseconda questi criminali. Quindi vogliamo che questo venga fermato. Tutto questo deve finire per la tutela dei nostri figli. Beh, l'avete sentita. Questa era una mamma che arringava le folle, una rappresentante del movimento delle mamme, Popolo delle Donne, si chiama Rosaria Mangia, questa è presa dal canale YouTube voxitalia.tv, che rappresenta in qualche momento, dice rappresentare, il movimento delle mamme italiane, che già sono espresse a vari livelli, e non credo che tutte le mamme d'Italia sentano rappresentate da questa signora. Comunque sono quelle che dicono che in realtà i bambini hanno bisogno di un'attenzione maggiore, se la prendono alla larga, alcune sono lecite come istanze, dicono che la scuola deve occuparsi più dei bambini, però come sentirete in questo secondo clip, la signora Mangia va anche oltre nella sua battaglia generale per la difesa della libertà e della determinazione dei bambini. I primi periodi, quando ho sentito parlare di questo Covid, ero spaventata per paura di prendere questo virus, anche perché la televisione c'erano ogni giorno, tu accendevi la televisione, c'era la diretta alle 18 che ti faceva venire l'ansia con questi morti, i contagi. Poi abbiamo capito che bisognava spegnere la televisione. Noi siamo ormai da febbraio circa che la mia televisione è completamente spenta e non intendo più accenderla, e ci siamo documentati tramite medici di un certo spessore, con la stampa non corrotta, perché purtroppo anche la stampa ormai si è asservita a questi criminali del Deep State che si sono comprati mezzo mondo, tutti i mezzi di comunicazione in cui loro fanno passare un messaggio che non è quello reale. Il Covid non uccide, il Covid ha non ce n'è di Covid. La parola d'ordine potrebbe essere questa della mamma di Mondello, che ormai è diventata un meme, intervistata qualche mese fa, dice non ce n'è di Covid. E questa signora in sé è rappresentante di un movimento di opinione che in Italia si sta consolidando con varie facce e vari, diciamo, aspetti rappresentativi, che avrà comunque una sua pubblica presentazione domani al Circo Massimo. Ci sarà la grande manifestazione domani pomeriggio dei No Mask. Non si chiama esattamente così, è una manifestazione che va a seguito, le manifestazioni sono state a Berlino, a Londra, a Zurigo, sono, diciamo, delle stampe, delle proteste contro la lettura generale del coronavirus, lettura ufficiale, che vogliono, ha sentito, il Deep State, che esista una sorta di congiura internazionale per asservire le persone, di cui il coronavirus è l'arma strategica più efficiente. Una manifestazione al Circo Massimo non è proprio una stupidaggine, perché innanzitutto per mettere insieme un po' di persone servono dei soldi, bisognerà capire dietro chi l'ha appoggiata. Lo slogan di questa manifestazione, Italia libera, è di Forza Nuova, che è un'organizzazione di destra, si vedranno davanti alla bocca della verità, ma ci saranno un'infinità di altre persone e di altri movimenti, vengono fatti nomi, il nome di Meluzzi, il nome del filosofo Fusaro, del cantante Povia, poi altri nomi che hanno preso le distanze. Comunque qualcosa accadrà domani a Roma, ci sarà una piazza, ne abbiamo viste tante di piazze, che rappresenterà compatta l'idea generale che c'è stato un grande allarmismo, che il Covid è una grande bufala, che drammatizzando e radicalizzando la sfilata di camion con le bare che abbiamo visto a Bergamo, erano bare vuote, che in fondo ci si può ridere del Covid, anche se poi questa narrazione, che viene declinata anche a livelli più soffusi e più sommessi, in maniera un pochino ipocrita, ma più decisi anche da forze comunque rappresentate in Parlamento. Ricordo Sgarbi, l'ho già detto giorni fa, la sua presa di posizione più che altro dadaista e provocatoria come sindaco di Sutri, di multare chi mettesse la mascherina in nome di una vecchia legge sull'ordine pubblico. Ma lo ha detto molto chiaramente anche Salvini, lo ha detto anche Giorgia Meloni, ci ha scherzato tanto anche Briatore. Oggi la notizia del giorno è, diciamo, i sintomi sono apparsi anche in Silvio Berlusconi, e la notizia del giorno è che lo schieramento generale, che in Italia rappresenta il pensiero conservatore, in qualche maniera è spezzato dal fatto che, mentre la linea, non voglio dire negazionista, ma dubbiosa nei confronti di quanto si faccia nei confronti del Covid, è un po' incrinata dal fatto che uno dei tre leader comunque se l'è preso, se l'è beccato, anche se scherza, anche se ride, comunque sia, sta seguendo tutto l'iter di una persona affetta da Covid, che non è una cosa allegra, non si può che augurargli comunque una pronta guarigione. Detto questo, chiederei questa mattina ai nostri ascoltatori chiamare l'800240024 e farci sapere, se possibile, come loro vedono questo nuovo movimento, oppure nuova versione di un movimento che ha sempre serpeggiato. Nella prima puntata ho citato addirittura il Mattino dei Maghi, per dire quanto era presente nel pensiero reazionario questa deriva verso l'improbabile, lo sciamanico, il non scientifico. Linea che continua, linea che persiste, tanto che a Berlino abbiamo visto bandiere di movimenti neonazisti assieme a questi no mask. E io su questo voglio capire qualcosa di più. Quindi 800240024, sarete domani a Roma, almeno spiritualmente, assieme ai no mask? Pensate ci sia qualcosa di giusto, qualcosa di importante qua dietro, o semplicemente il solito popolo di persone che comunque manifestano il loro desiderio di un punto di ripristino, come abbiamo detto noi, come punto focale di questa edizione di Melo. Sentiamo Paolo, subito Paolo ha chiamato. Paolo, buongiorno. Paolo è caduto, e allora sentiamo l'ospite con cui volevo ragionare di questa vicenda, che è la mia amica e collega Flavia Perina. Flavia Perina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Flavia, sei una opinionista di larghe vedute, sei una giornalista che ha avuto un passato di direttore di un giornale politico, è stata direttore del Secolo d'Italia, poi quando la linea politica non ti ha più apprezzato ti hanno mandato via. Con grande spirito di intrepidezza continui a ragionare e osservare il mondo attraverso la stampa, attraverso altri giornali. In maniera particolare però ci accomuna un'esperienza di conoscenza profonda di quella che è stata la destra storica italiana dal dopoguerra a oggi. Ecco, come vedi innanzitutto questo rimpossessarsi comunque anche di questa frangia di dissidenza da parte, almeno a livello europeo, poi entriamo nello specifico italiano, da parte del cosiddetto pensiero, chiamiamolo pensiero conservatore, reazionario, non in termini dispregiativo, ma che comunque rappresenta il desiderio del ritorno a un mondo passato, perché il mondo moderno è sintomo di una crisi profonda che va combattuta. Ma l'idea del grande complotto contro i popoli è stata sempre presente nella cultura conservatrice, cioè l'idea che il progresso alla fine non fosse altro che una colossale, gigantesca manovra delle Pluto, Giulio, eccetera, eccetera, contro la vita semplice e gli interessi delle persone. E la cosa piuttosto sorprendente per me è che questa idea, che normalmente si era applicata a dati economici, cioè a dati economici o anche a dati diciamo più genericamente scientifici, noi abbiamo visto addirittura per molto tempo manifestarsi i negazionisti dello sbarco sulla Luna, persone che dicevano che lo sbarco non c'era mai stato ed era stata una fiction americana girata negli studi di Hollywood, per non parlare dei terrapiattisti, dei sostenitori delle scie. Sì, poverine, l'hanno presi due naufraghi al largo, non so, della Sicilia, mi pare, che cercavano la prova della terra piatta. Sì, cercavano il bordo della terra, sì, cercavano il bordo della terra, che pensavano che fosse al largo di Lampedusa. Ma questa idea del grande complotto è per me piuttosto sorprendente che sia scivolata in ambito sanitario, dove alla fine sull'ideologia generalmente prevale anche il timore fisico, la paura, comunque la consapevolezza. Molte persone, soprattutto nel nord Italia, hanno avuto contatti diretti col virus, nel senso che hanno tanti amici, parenti, malati, sofferenti, che sono stati ricoverati e spesso che sono addirittura morti per il virus. Quindi che addirittura l'ideologia potesse sormontare quelle che sono le palesi esperienze personali e le narrazioni dirette delle persone è piuttosto bizzarra. Però non dobbiamo dimenticarci anche che ci sono stati a livello europeo importanti leader che hanno cavalcato, almeno all'inizio dell'epidemia, questa realtà. Ma certo, il premier britannico Boris Johnson. Ecco, prima di ammalarsi lui stesso, e dicono che ancora tra l'altro stanno i guai perché la convalescenza dura molto, è uno che ha sostenuto che sostanzialmente che non si chiudeva niente perché il virus Trump era aperto alle terapie alternative che poi sono rivelate solamente fumose. Diciamo, c'era un'idea generale, certo, nel mondo della conservazione, della tradizione, chiamiamolo come vogliamo, della reazione, come volete voi, nel senso di, parlo della più pura espressione del pensiero reazionario, degli anti-giacobini contro il progresso, contro l'illuminismo, dicendo l'idea che dietro il Covid ci fosse un grande complotto. Ma oggi che tutta questa cosa scende e si manifesta in Italia per la prima volta così palesemente, abbiamo già visto qualche manifestazione degli arancioni di Pappalardo, però c'era sempre dietro l'idea che fossero persone che erano mosse da un bisogno, dalla fame, dalla ristrettezza economica, protestavano per quello, quindi erano giustificati. Ma che ci sia una sorta di popolo delle mamme, assieme alle nonne, assieme a Meluzzi, assieme a Fusaro, assieme a Forza Nuova, che vada in piazza, è un elemento che ci fa riflettere. Ho ripreso Paolo, sentiamo Paolo e poi ne parliamo assieme. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei dire una cosa. Mi sembra che questa manifestazione sia una negazione della scienza. Voglio dire... Questa è la premessa fondamentale, certo. Ma è assurdo, perché rischi di dare dei cattivi esempi, di creare brutte situazioni, creare conflitti che proprio non ci devono essere. Cioè, voglio dire, i vaccini sono stati creati per aiutare l'umanità, le persone contro malattie terribili. Se andiamo a guardare indietro di 50 anni c'era la poliomielite o altre malattie anche peggiori. Io trovo tutto questo qui veramente assurdo, mi cadono le braccia, perché mi sembra che invece le persone di andare avanti, di crescere intellettualmente, culturalmente, stanno regredendo. È una cosa, però vede Paolo, questo è diciamo è la definizione di buonsenso comune che tutti passa per le nostre teste, ma soltanto disprezzarli, denigrarli, prenderli in giro, dire che un popolo di analfabeti, di ignoranti, sarebbe una lettura superficiale e anche che non soddisfa comunque tutte le curiosità e tutti i dubbi. C'è dentro un movimento ben preciso, c'è un'idea ben precisa, c'è un qualcosa che secondo me va oltre. Le mamme scenderanno in piazza in buona fede, il popolo delle mamme, perché vedrà i figli costretti dentro casa e cattiva la zolina che non li fa andare in classe perché ha paura di qualcosa che non esiste. Ci va Fusaro perché comunque deve far parlare di sé, è un filosofo, a parte diciamo di una parte ideologica e politica, e comunque deve per forza sostenere questa tesi. Ci va Povia perché Povia fa parte di un movimento per la difesa della famiglia, contro la polarità non convenzionale nel sesso, insomma ci sta anche Povia. ci sta Meluzzi, perché Meluzzi, che è uno psichiatra comunque sia, ha una sua visione ben precisa, molto teocratica, per cui la vede anche in maniera sua. Insomma, è un universo molto complesso, è troppo semplicistico dire sono dei poveretti che non hanno cultura. Ci sono persone che hanno una profonda cultura, quindi c'è un movimento ideologico dietro, questo vorrei capire. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì, io se possibile mi volevo confrontare su un semplice fatto, premettendo che la democrazia è un pochino, è una linea sottile, qui però forse ci troviamo di fronte a un controsenso nel controsenso. Il primo è che, diciamo, un movimento del genere ideologico diciamo minaccia quella che è la salute pubblica. La seconda cosa, secondo me, è che comunque viene sponsorizzato in parte da un movimento di estrema destra che, se non sbaglio, è anche anticostituzionale. Ecco, io sull'argomento sono nella fattispecie un po' più sensibile, perché giusto ieri ho avuto modo purtroppo di confrontarmi con dei colleghi Novax, perciò insomma è un pochino chiaramente. Io se per esempio prendessi 200-300 persone, organizzassi una manifestazione non autorizzata, giustamente la cosa mi verrebbe impedita, e avere, cioè, vedere un'autorizzazione da parte di movimenti di questo tipo mi fa rimanere un po' perplesso, ecco. Diciamo che il tema è abbastanza complesso. Da una parte c'è un'idea generale che tutti possano esprimere la loro opinione, e che penso anche io che censurare, bloccare persone che esprimono opinioni anche pericolose ad essere espresse, si creano degli eroi, si creano dei martiri, si avvalora il tema della censura. Tutti potrebbero dover dire la loro, però ci dovrebbe essere un movimento altrettanto forte di pensiero, di opinione, con argomentazioni valide, comprensibili, ben comunicate, che spieghi i limiti di questa cosa. Ci fermiamo ancora un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Salve, sono Gianni Zandonai, un uomo della strada, anzi delle paludi. Sono stanco dell'Europa, dell'Italia, di Roma, dell'alfabeto, dei vaccini e dei professoroni. Le branchie sono mie e me le pulisco io. L'unica cosa di cui non sono stanco e mia moglie, ti amo tanto Tania. Anche me. Mi candido a partecipare a questa bella trasmissione perché sono fra i grandi dimenticati dai poteri forti nei palazzi. Volete farvi un tuffo? Come vedete, abbiamo sentito il prototipo e la copia, la signora Rosaria Mangia, delle rappresentante del Popolo delle Donne, Edoardo Ferraro che fa l'uomo delle paludi, il Veneto contro i poteri forti, più o meno dicono le stesse cose. È anche un privilegio avere immediatamente, come ci si manifesta dal nulla, qualcuno che ti fa immediatamente la satira, quindi vuol dire che comunque si esiste l'immaginario generale. Vi leggo l'ultima notizia su quello che accadrà domani. Ci saranno alcune centinaia di persone senza idee politiche, senza distinzioni sociali, si uniranno contro le normative anti-Covid che hanno minato le nostre libertà. E poi ce l'hanno con Conte, col prolungamento dello stato d'emergenza, diciamo espressioni che sono state anche espresse nell'ambito parlamentare. È un vero attacco all'Italia, agli italiani, il popolo deve rispondere forte e chiaro. Italia libera il 5 settembre tutti a Roma, siamo l'Italia si ribella, lotta contro la vaccinazione di massa, la sorveglianza totale, siamo lavoratori e lavoratrici, partite IVA, commercianti, artigiani ridotti alla fame, siamo genitori che non faranno vaccinare i propri figli, che non vogliono l'esercito fuori dalle scuole e il prelievo coatto dei bambini, siamo quelli contro le antenne 5G, contro gli interessi dell'OMS, Gates, Soros, poteri internazionali, siamo il popolo di Rida, Italia libera, che sabato 5 settembre invaderà Roma alla bocca della verità. Che ricordo che è il posto dove vanno tutti i giapponesi a infilare la mano nella bocca della verità, che in realtà è un tombino di fogna, ma per i giapponesi è il simbolo della Roma antica, perché hanno visto appunto Vacanze romane. Flavia Perina, cominciamo a dare un ordinamento rispetto a quello che è accaduto in Europa e quello che sta accadendo in Italia. Tu ci riesci a darmi un'idea, uno spaccato, una mappa di capire chi sono queste persone? Sì, mi sembra che la descrizione che hai letto è una descrizione, insomma, un po' un minestrone dove dentro c'è tutto. Immagino che sia la quota quella quota di italiani in generale, appunto, diffidenti verso ogni tipo di obbligo sociale, dai vaccini appunto fino ai limiti di circolazione, che tra l'altro si esprimono in un momento in cui le limitazioni legate al Covid sono francamente molto minori. Noi abbiamo delle regole per andare a scuola, abbiamo qualche regola negli uffici pubblici, si misurano la temperatura all'ingresso, ma non ci sono obblighi specifici di mascherina all'aperto, cioè non si vede questo attacco alla democrazia. Le elezioni si svolgeranno regolarmente, ci sarà un referendum, e l'attacco alla democrazia magari se ne poteva parlare 2, 3, 4 mesi fa, adesso francamente è un po' complicato, ma sarà l'altra cosa interessante è lo spostamento della manifestazione, perché saltare dal Circo Massimo alla Bocca della Verità ci dice che forse le adesioni di questo popolo sono quelle di un popolo un po' piccolino. Io ti sì, che da piazzetta un po' più piccola si riempie subito, ecco, diciamo la verità. Ma è una microscopica piazzetta romana, diciamo, la via di mezzo poteva essere Piazza del Popolo, loro a un certo punto avevano convocato per Piazza del Popolo e poi nell'arco di 24 ore si sono ulteriormente spostati a una piazza assai minore. Però di fronte al tempio dedicato alla potenza virile, quindi forse c'è un senso sì, sottile. Probabilmente che non c'è un senso, sì, la Bocca della Verità è stata teatro negli ultimi anni di diverse manifestazioni di minoranze rumorose in qualche modo collegate alla destra, forse anche questo, cioè quest'aura di virile romanità che in qualche modo risulta attrattiva. Ma io ti leggo dalla pagina di Italia Libera 5 settembre tutto a Roma, che è il gruppo Facebook che sta lanciando la manifestazione, uno dei post dice: ma è possibile che su 1315 iscritti solo 28 hanno risposto all'invito del 5 settembre tutti a Roma? Chi ci sarà? Cioè, mi sembra che abbiano dei seri problemi di partecipazione. E comunque, questo dimostra, Flavia, però, parliamoci anche, facciamoci un po' di autocritica, che la stampa negletta, vile, prezzolata, che tende a sottostimare e occultare quel movimento di popolo, gli stiamo dando vitalità noi a un sì, gruppo di 4 sfigati in che andranno... Sì. È così, sì, in realtà penso che è stata data una grande visibilità sull'onda dei movimenti europei e le manifestazioni europee della settimana scorsa sono state oggettivamente imponenti. A Berlino hanno sfilato 28-30 mila persone. Ecco, da noi non sembra che il fenomeno sia almeno numericamente replicabile. Poi io penso anche che avrà un colpo piuttosto fatale dalle notizie appunto sul ricovero in ospedale di Silvio Berlusconi, che contrastano con questa narrazione superficiale. Cioè, quando viene ricoverato un uomo che ha vissuto tutta l'emergenza Covid, chiuso dentro una villa, in una situazione di massima sulla Costa Azzurra, non in una borgata. Ecco diciamo, forse magari qualche tendenziale simpatizzante del movimento No Mask, due conti con la realtà, forse sta cominciando a fare. Mi fai la tua valutazione, Flavia? Esula un po' da quella che di solito le mie curiosità, però mi interessa e ne approfitto che ci sei te. Diciamo, l'opposizione di centrodestra parlamentare, tutti i colleghi di Rete 4, che bene o male, in maniera più sottile, più attenta, meno cialtrona, hanno sempre sostenuto questa tesi che ci fosse un po' di esagerazione, da Salvini, dalla Meloni, da tutti poi gli opinionisti, da Meluzzi, da Capezzone, da Maria Giovanna Maglie, dai Porro. Non sono mai stati così espliciti, però hanno sempre un po' sorriso questa roba. Come si porranno in questo momento di fronte all'aspetto cialtronesco e folcloristico che esce fuori di questa linea, la punta più avanzata? Saranno con il popolo o prenderà le distanze dal popolo? Ecco. Io penso che continueranno a mantenere questa linea, diciamo, un po' cerchiobottista che hanno tenuto per tutta l'emergenza, che poi è una linea determinata non da convinzioni vere sull'emergenza sanitaria, ma è determinata dalla cultura produttivista che ha la destra italiana di fronte allo spettro di una possibile richiusura delle attività commerciali, alle oggettive difficoltà delle fabbriche, che è un problema, delle aziende, delle partite, che è un problema serio. Non lo sottostimiamo, certo, è un problema serissimo. Che è un problema serissimo e ha appoggiato l'idea che fosse preferibile correre il rischio sanitario ma non ammazzare l'economia o comunque non mettere in difficoltà l'economia, piuttosto che viceversa. Questa è la linea ideologica a cui sono ispirati. A seconda dei momenti questa linea è stata espressa con più forza o con minor forza. Prima del ricovero di Briatore sembravano tutti quanti ad esempio sparati sulla apertura delle discoteche, poi si sono resi conto che l'argomento era diventato impopolare perché era arrivato il contagio in molte regioni come la Sardegna, da loro governate, dove il contagio non c'era mai stato, e hanno messo un po' il silenziatore a quel tipo di racconto. Quindi mi sembra una linea piuttosto altalenante, sì, a seconda, diciamo, del momento. Lo slogan divertito, chiudono le discoteche, aprono i porti perché la gente non dovrà più divertirsi e ci sarà uno stato oppressivo, è durata una giornata che poi il Covid imperatore ha tacciuto tutti. Sentiamo Simone. Simone, buongiorno. Simone? Simone, sì. Lei è Simone? Simona. Ah, Simona, salve, scusi, scusa, chiedo scusa, ma hanno scritto Simone. Chiedo scusa, signora. Simona, l'ascolto. Sì. Beh, allora, io innanzitutto, come prima cosa, vorrei consigliare a voi, ma anche a tutti gli ascoltatori, di leggere un libro bellissimo, sempre molto attuale, del sociologo inglese Paul Hawken, Una moltitudine inarrestabile, che, se vogliamo, parla proprio di questo momento qua. Parla di persone, associazioni che si scostano un po', che non si riconoscono, no, le ideologie tradizionali, non fanno riferimento al leader, anche se poi c'è tutta una grande parte della politica che vuole, come sempre, no, manipolare e mettere il bollino su ogni movimento spontaneo che nasce un po' in tutto il mondo. Proprio perché non abbiamo messo bollino, ho semplicemente riportato quello che dicono loro. Sono pronto a cambiare, lo dico sempre. Idea ogni si vogliono momento, appropriare però... magari di movimenti spontanei, liberi, perché non ci dimentichiamo che a Berlino, nonostante tutto quello che è stato detto, non c'erano 5.000 nazisti, c'erano Hare Krishna, c'erano famiglie, c'erano persone che volevano capire, c'erano, perché vede, oggigiorno basta porsi delle domande per diventare complottisti, basta domandarsi se è giusto o meno mettere una mascherina 8 ore al giorno per essere paragonati ai terrapiattisti, e questa cosa, sinceramente, detta specialmente da lei, che io seguo con gran passione quasi quotidianamente, con grande stima, un pochino mi dispiace, perché però Simona, questo paragone un attimo al terrapiattismo mi sembra un po' esagerato, dire. La galassia è quella, Simona, la galassia è la stessa. Allora, uno può anche non mettersi la mascherina a tempo pieno, può metterla soltanto per rispetto delle altre persone quando è in contatto con altre persone, semplicemente per un rispetto, dire comunque sia evito il problema, se ci fosse una possibilità che io possa infettarti, che ti infetti. Io, questo è il principio per cui si mette la mascherina. Ma quando io leggo dentro la mascherina c'è una particolare sostanza, fa venire il tumore, ci fanno mettere le mascherine perché fanno male, che in qualche maniera sono cose che dice Sgarbi in Parlamento, le mascherine fanno male. Quando ti prendono la temperatura con il termometro, in realtà è un laser che ti vuole seccare l'amigdala, dove c'è la sede dell'anima, che poi saremo tutti schiavi, che il 5G è il passo verso il microchip con il vaccino per dominarci tutti. Un pochino sorrido, perché sa, è soltanto la versione tecnologica di quello che era scritto nei protocolli dei savi anziani di Sion, in tutte le letture sui complottismi che possono essere fatti. Ora, io capisco, ci può essere comunque un potere forte che non individuiamo, che non è certo quello rappresentato ufficialmente, ma che si arrivi a questi paradossi della terra piatta, del vaccino che uccide, del microchip che ci vuole schiavizzare, fa parte di una narrazione che, secondo me, in questo momento è improprio portare in piazza, perché si limita la nostra capacità di difenderci da un virus di cui sarà veramente molto poco. Questo penso io, Simona. Non si senta offesa nelle sue, io non voglio offendere nessuno, io però voglio argomenti che mi convincano. Se qualcuno riesce a convincere me, vuol dire che comunque argomenti validi, importanti, riescono a convincere un dubbioso fisiologico. Francesco, ah no, vi fermo un attimo, ci fermiamo un secondo, tra poi riprendiamo. Melog 800240024, vedo che comunque in qualche maniera riusciamo a aprire dibattito, anche se non riusciamo a cogliere ancora persone che apertamente ci dicono che faranno parte di questo popolo, soprattutto il popolo delle mamme mi interessa conoscere. Intanto ringrazio Andrea Roccabella che mi mette in onda da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti da Roma, e faccio parlare qualche altro ascoltatore, poi con Flavia Perina cercheremo di tirare qualche conclusione, che secondo me porsi qualche domanda, al di là del considerarlo soltanto un fantasioso gruppo mélange di estremismi e di follie, forse vale la pena. Gabriella, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io chiamo da Brescia, che con Bergamo si è contesa, diciamo, la palma della vittoria, e mi ha colpito molto quello che lei ha detto in merito al discorso che c'è gente che crede che sui camion ci fossero le bare vuote. Il sindaco di Brescia non ha richiesto i camion perché purtroppo il nostro forno inceneritore era abbastanza ampio e ce la siamo gestita, però le posso assicurare che le foto, diciamo così, della sala di attesa del forno crematorio noi le abbiamo viste, come abbiamo contatti diretti con tante persone che hanno perso i loro parenti. E ad esempio c'è stato addirittura un primario dell'ospedale civile che ha chiamato a supporto perché gli servivano per la riabilitazione i fisioterapisti, gli studenti di medicina che volontariamente hanno fatto determinate operazioni all'ingresso dell'ospedale. Gabriella, sacrosanto glielo ho fatto dire, perché dà giustizia comunque a chi l'ha provato sulla pelle. Queste manifestazioni infatti non le fanno a Bergamo, Brescia, in Veneto e Lombardia, le fanno a Roma, dove ancora siamo una città un po' assopita, non si è sentito il morso forte del coronavirus, perché è una città che è stata indenne prima dell'estate, adesso ci sono dei casi, ma è una città grande, diffusa, ancora tutti hanno l'impressione che sia qualcosa che appartenga agli altri. Quindi in questo lasso di tempo, che speriamo che poi sarà un atteggiamento che darà saggezza a tutti, comunque vada, si fa sì che la trasmissione si fa, che la manifestazione si faccia a Roma. Va da sé, a Roma si può dire quello che si vuole, perché ancora nessuno ha visto le file delle bare, spero non le vedrà mai. Pochi hanno avuto parenti colpiti, morti, uccisi, pochi hanno visto i centri anziani con gli ospiti sterminati. Andrea, buongiorno. No, buongiorno Nicoletti. Io volevo dire che secondo me queste cose vanno prese con molta, molta, molta prudenza. Perché che esista il Covid è indubbio, che poi sia stato militare, una cosa militare, quello non è di nessun interesse. C'è, comunque c'è, e a questo punto c'è, e tanto ce lo dobbiamo tenere. Ahimè c'è. Che poi ne abbiano approfittato, secondo me è altrettanto vero. Ma non nel senso del complotto, perché chi parla di complotti, a mio avviso, è colui che non vede al di là del suo naso. Nel senso che se io sono l'amministratore delegato di una Bayer, che già dovrà pagare milioni di dollari in America perché ha messo dei pesticidi cancerogeni, devo portare utile alla società. E cosa dovrò fare? Mettere sul mercato un vaccino credibile, altrimenti che mi succede? Mi licenziano? Perdo la casa, perdo la moglie, perdo tutto. No, deve funzionare un vaccino vero, non finto. Deve essere un vaccino vero, chiaro. No, ma non può esistere. Allora, il vaccino vero funziona soltanto se io tratto un virus come la poliomielite, il vaiolo, eccetera, che ha DNA e RNA. Sì, per non dare il cervello in delega. Sì, ma lei, certo. Io non ho strumenti per poter parlare con lei di questo, lo sa, perché non entra in un campo che non gestisco. Quindi io spero, immagino che siccome tutte le sperimentazioni sul vaccino sono seguite da una comunità scientifica mondiale, si faccia una direzione tra un vaccino che funzioni, che poi su questo vaccino qualcuno ci guadagnerà pure, va da sé, ma sono ben contento ci guadagni se il vaccino funziona. Però che il vaccino non possa esistere per l'RNA invece del DNA è un tema che, il quale non mi avventuro, perché non è lei uno scienziato e non sono io, diciamo, una persona con cognizioni scientifiche tali per poterne parlare. Scusi, è solo questo. Francesco da Napoli. Salve, io domani andrò alla manifestazione a Roma, a Piazza Bocca della Verità. Ma ci andrò anch'io, perché sono curioso. No, vabbè, spero di incontrarla. È una manifestazione organizzata da almeno un mese, ben diversa da un'altra manifestazione che era stata indetta a Piazza del Popolo da Forza Nuova, che, vista la debacle, ha deciso di convogliare le persone verso questa manifestazione. Forse questo, allora, mi spieghi bene, è una dinamica che non è uscito sui giornali, allora, me lo dica lei, così ci dà la notizia. No, c'è un comunicato degli organizzatori della manifestazione di Piazza Bocca delle Verità, delle mamme del comitato, in cui in maniera assolutamente inequivocabile, li trovo anche sul sito, dicono proprio questo: erano due manifestazioni completamente diverse, l'altra è fallita, cioè fallita, si prospetta come un fallimento, perché hanno deciso Forza Nuova di arrivare a Piazza Bocca della Verità. Da quindi solo per capire, Francesco, faccia capire bene, allora, la manifestazione primaria era dei no mask, delle mamme, dei no vax, dei complottisti. Era sempre stata la domanda per il luogo da tenere, era sempre stato Piazza Bocca della Verità. Allora, quindi Forza Nuova a un certo punto si è convogliata su questa manifestazione? Si è convogliata su questa manifestazione e questo, tra l'altro, ha dato ulteriore spazio alle persone che prima accusavano di negazionismo chi partecipava a questa manifestazione e adesso le accusano anche di simpatie filofasciste o di destra. E io credo che questo, diciamo, dovrebbe essere detto. Allora, resta un attimo domani... in linea. Francesco, resta in linea. Flavia Perina, tu avevi notizia di questa, diciamo, appropriamento in debito da parte di Forza Nuova della manifestazione? No, non avevo notizia del fatto che fossero inizialmente due manifestazioni diverse, ma leggendo, diciamo, le pagine Facebook in cui viene convocata a questo punto la manifestazione originaria, quella di Piazza della Verità, si nota abbastanza un certo fastidio per questo tipo di aggregazione, che è abbastanza indecifrabile, perché questo gruppo delle mamme, ad esempio, non è un gruppo aperto, è un gruppo chiuso nel quale bisogna iscriversi ed essere vagliati per poter partecipare, così come molti dei gruppi che stanno chiamando a questa manifestazione sono gruppi chiusi, dei quali è difficile decrittare anche le coordinate ideologiche, le convinzioni, al di là della convocazione andiamo in piazza contro la dittatura sanitaria. Quindi magari sarebbero gli organizzatori a dover fare un po' di chiarezza su chi sono, da dove vengono e per quale motivo anche vanno in piazza, al di là di questo messaggio oggettivamente molto generico. E a me non, io credo che l'idea della dittatura sanitaria magari potrà essere esplicitata in futuro, se ci fosse ad esempio l'obbligatorietà del vaccino, e là davvero avremmo in Italia, perché in Italia il movimento Novax è stato molto forte, là davvero potremmo avere delle proteste di massa come quelle viste in altri paesi europei, ma al momento non se ne parla neanche del vaccino e chiunque ne abbia parlato a livello politico ha parlato sempre di un vaccino volontario, così come sarà volontario quello sull'influenza invernale che qualcuno suggeriva di rendere obbligatorio. E quindi gli estremi della dittatura a me oggettivamente non li vedo. Vedo un grande rischio per l'economia del paese, vedo un grave rischio per le persone, per le scuole, per un'intera generazione, soprattutto i più fragili, che rischiano di essere tagliati fuori dall'iscrizione scolastica perché magari vivono in aree dove le scuole sono piccole, disorganizzate, dovranno ripetutamente sospendere le lezioni. Questi sono i rischi importanti del momento, che le conseguenze dell'epidemia aumentino le diseguaglianze nel nostro paese perché gestite in modo senza equilibrio, perché gestite in modo poco focalizzato su questo problema, quello delle diseguaglianze, che ovviamente chi si ammala o chi va in una scuola privata avrà un vantaggio competitivo enorme rispetto al cittadino magari della piccola scuola meridionale che resterà chiuso un mese su due perché qualche ragazzino l'avrebbe. Quindi allora Francesco Di Napoli ci ha permesso di, come al solito, dare maggiore corposità a quelli che erano nostri dubbi. Francesco, ancora in linea, ha sentito quello che ha detto? Sì, Flavia, sono in linea. Avrete sentito molte cose, voglio dirne solo una a proposito della dittatura sanitaria. No? È vero che non si prospetta l'obbligo del vaccino anti-Covid, ma anche perché questo vaccino non c'è e verosimilmente aspetteremo decenni, come quello dell'AIDS, per averlo, certo, che ancora non c'è. Quello che però già c'è, e questo è il telefono appunto da Napoli, abbastanza riferito, è la proposta che è diventata delibera in Campania e nel Lazio di rendere obbligatorio la vaccinazione antinfluenzale, che diventerà obbligatoria dal 15 settembre. Qual è la motivazione per questa vaccinazione? Che chi manifesta i sintomi dell'influenza potrebbe confondere i posti di pronto soccorso praticamente che sono allertati per Francesco, la linea, sì, ho capito il suo punto di vista. Dico, io sono andato già a cercarlo in farmacia che non vedo l'ora di farmelo, il problema è che ancora è difficile trovarlo e non si fa. Sono punti di vista diversi, a me che sia obbligatorio o no, comunque me lo farò. Grazie Flavia Perina, grazie a tutti, alla prossima.